E allora torniamo in voce. Dunque, siamo al telefono con una compagna dei blocchi precari metropolitani. Buongiorno. Buongiorno a tutti e tutti. Allora, chiaramente per parlare del corteo di sabato, questo appuntamento importante per rilanciare le lotte sociali e soprattutto difenderle dalla repressione, dagli arresti, da un atteggiamento insomma che si è fatto di angheria e prepotenza del governo e chiaramente dei suoi esponenti, chiaramente a partire dal braccio poliziesco. Peraltro, Irene, insomma, abbiamo appena ascoltato che c'è stato uno sgombero a Bologna, 50 famiglie migranti insomma sono state sgomberate da una palazzina in via Bengasi, e dunque insomma dei fatti che si estendono, questi degli sgomberi, quasi a fornire un segnale che va oltre il piano cittadino. Insomma, come ci si sta attrezzando da questo punto di vista? Beh, mi sembra insomma che siamo in un momento di emergenza sul quale dobbiamo riflettere tutti, da quanto accaduto in Valle a quanto accaduto a Roma venerdì con l'iniziativa davanti al CIPE, alle cose che stanno accadendo in queste ore a Bologna. Sentivo poco fa anch'io la corrispondenza su Radio Onda Rossa dello sgombero, è chiaro che siamo di fronte a una situazione che ci costringe a riflettere, a prendere le iniziative necessarie per difenderci. Il clima è pesante, crediamo che questo clima sia decisamente imputabile a un governo, il governo Monti, che deve gestire una crisi pesantissima e ha deciso di gestirla chiaramente garantendo e rappresentando gli interessi delle banche, dei poteri forti, della BCE, e per cui sostanzialmente si preparano lo stanno facendo appunto con le azioni che ricordavamo prima, che in questo paese non ci può essere spazio per il dissenso. D'altra parte lo stesso presidente Napolitano, proprio riferendosi alla Grecia il mese scorso, ha detto l'Italia non può diventare la Grecia, non sarà la Grecia, per cui il messaggio è chiaro, esplicito ed è stato ribadito sia appunto nelle piazze, sia rispetto alla repressione, sia rispetto alla repressione giudiziaria, a partire dal teorema Caselli, che sembra essere stato perpetrato anche a Roma sabato di fronte a un giudizio tutto politico da parte della magistratura, che ha deciso la convalida degli arresti, in particolare gli obblighi e l'obbligo agli arresti domiciliari, le restrizioni anche sulla comunicazione per Paolo Di Letta, che appunto rimane ai domiciliari. Oggi pomeriggio ci sarà l'udienza, la prima udienza del processo alle ore 14, chiaramente gli avvocati difensori chiederanno la revoca delle misure perché presenteranno delle nuove prove tese a dimostrare con i fatti che l'ordinanza emessa è stata estremamente politicizzata, che si tratta di un provvedimento finalizzato alla privazione della libertà e alla limitazione dell'attività politica e sociale. Da questo punto di vista credo appunto che sia necessario fare una riflessione ampia e provare a far riflettere la città, ma il paese tutto, su quanto sta accadendo e sulla limitazione degli spazi di espressione che questo governo sta cercando di imporre. Domani pomeriggio faremo un'assemblea alle 16:30 al centro congressi di via Cavour, alla quale chiamiamo la città a partecipare, perché crediamo che l'attacco che c'è in corso a Roma, in particolare nei confronti dei movimenti per il diritto all'abitare, appunto che si è verificato venerdì con gli arresti al CIPE, ma con appunto le ritorsioni che ci sono state poi nel corso della giornata, con lo sgombero della Tendopoli prima e col tentativo fallito di sgombero di Casal Boccone, ma così come le minacce di sgombero che da almeno un mese ci stanno arrivando su diverse occupazioni della capitale, ci devono fare lanciare allarmi fortissimi, devono chiamare, ripeto, la città a stringersi intorno al movimento per il diritto all'abitare, che sta subendo questo attacco, ma intorno insomma all'idea che si difenda la possibilità e di agire il dissenso in questo paese, un paese governato da un governo tecnico che però appunto ha mostrato tutto, sta mostrando tutto il suo volto politico, e quindi è necessario appunto prendere parola e tornare in piazza tutti quanti insieme. Lo faremo sabato con questo corteo cittadino che partirà alle 15 da Piazza Vittorio e proverà ad arrivare al centro. Tra l'altro c'è una trattativa in queste ore in questura, perché la richiesta che era stata fatta dai movimenti era l'arrivo a Piazza Venezia, a causa del protocollo che arrivano a imposto, diciamo, con la complicità anche di pezzi sindacali eccetera, Piazza Venezia non ce la vogliono concedere. Se ci sono due giorni di trattativa, in questi due giorni appunto abbiamo provato a insistere su quello spazio, anche perché è un luogo vicino alla prefettura e la prefettura rappresenta il governo del territorio, rappresenta appunto un rappresentante del governo. Noi pensiamo appunto che il problema sia il governo, siano le scelte che il governo Monti sta facendo sul piano politico e quindi anche di conseguenza le scelte repressive che stanno mettendo in campo. Devono tornare al centro della discussione e ripeto, devono vedere tutte e tutti impegnati nella difesa degli spazi di agibilità. Senti, appunto l'aria che tira è bruttina. Anche insomma le mobilitazioni per la Val di Susa hanno avuto almeno alcune come conseguenza denunce. Ad esempio ve ne sono state a Brescia, a Genova per i blocchi stradali, ferroviari, poi insomma chiaramente gli arresti del 26 gennaio scorso li hai citati anche tu. Non ci scordiamo mai insomma della situazione 15 ottobre, che è piuttosto delicata. Assolutamente, tra l'altro stamattina c'è un'udienza in corso. Esatto, e sulla quale lì magari soprattutto all'inizio sono stati spiacevoli anche certi tentennamenti in generale, anche da parte dei movimenti. Però è bene anche dire appunto che c'è adesso un problema anche specifico che riguarda appunto il movimento di lotta per la casa, e si pone un problema anche di difesa delle occupazioni, Irene. Peraltro insomma mi sembra che comunque i tentativi dell'altro giorno abbiano evidenziato quanto ci sia una partecipazione sociale molto forte in difesa delle occupazioni stesse, con insomma tanti soggetti provenienti da tante parti che insomma si rendono attivi, ragazzi, ragazzetti, insomma anche questo è importante sottolinearlo e farlo capire. Che è importante, guarda, sottolineare rispetto, scusa se ti interrompo, rispetto anche all'ordinanza emessa dal giudice di sabato scorso. Questa ordinanza, ripeto, è un'ordinanza estremamente politica, perché rispetto ai reati contestati non si capisce bene, anche rispetto alle prove fornite in aula dagli avvocati, la necessità in particolare di imporre i domiciliari per Paolo. La questione è che hanno provato a sollevare, per questo parliamo insomma di un provvedimento di natura politica, nero su bianco insomma è stato scritto che i movimenti di lotta per la casa, capeggiati dai bianchi, strumentalizzano i migranti poveri e indifesi. Allora mi sembra che sia evidente da quello che sta accadendo in città in queste ore, dalle cose che raccontavi tu, anche dalla dignità con cui Casal Boccone si è difesa e anche dalla dignità con cui la Tendopoli, gli occupanti, insomma, coloro che avevano messo il presidio della Tendopoli, sono poi venuti a raccontarci pubblicamente durante la conferenza stampa. E mi sembra insomma che qui chi sta provando a strumentalizzare i migranti sono la magistratura, la polizia, il governo, gli stessi insomma che utilizzano i migranti come forza lavoro precaria e che li sfruttano per stare su appunto come forza lavoro in un territorio, nel territorio del nostro paese, vivere sotto ricatto e rinchiuderli in un CIE o mandarli rimpatriarli nel momento in cui non servono più. Allora è importante, hai fatto bene a sottolineare insomma a questo punto, capire che il movimento per il diritto all'abitare, per questo noi pensiamo che sia sotto attacco, allo stesso modo in cui è sotto attacco la battaglia in Val di Susa, è un movimento trasversale, forse per questo fa paura, è un movimento fatto di uomini e donne, italiani e migranti, giovani e meno giovani, che si mettono in gioco con i loro corpi, con le loro intelligenze, per rivendicare i diritti, appunto, i migranti che occupano, in questo caso, insomma, parlando dei movimenti per il diritto all'abitare, non occupano perché sono strumentalizzati da qualcuno, perché sono poverini, sfigati, no, occupano perché hanno tanta consapevolezza. E perché hanno la consapevolezza del fatto che vivono da sfruttati, che non riescono a ottenere i diritti in questo paese, e per cui l'unico modo che hanno è quello di auto-organizzarsi insieme agli altri. E, appunto, questo è un punto centrale, però pensiamo che sia anche uno dei motivi per cui il movimento è sotto attacco, perché è un movimento vero, non è un movimento che si basa su presupposti ideologici o su rivendicazioni di questa natura. Insomma, è un movimento che pone delle questioni vere, delle questioni sociali vere, che combatte tutti i giorni, che lotta sui territori e che strappa anche spazi di agibilità, in un paese in cui invece questi spazi si restringono. Senti, che fine hanno fatto invece le famiglie in emergenza abitativa, quelle che stanziavano nella tendopoli alla Collatina? Guarda, le famiglie in questo momento sono ospiti di altre occupazioni, che come sempre, insomma, per fortuna c'è questo meccanismo di solidarietà che fa capire anche come siamo tutti uniti, siamo parte di uno stesso percorso e di uno stesso processo. E chiaramente la questione rimane ed è centrale. Sabato il corteo, speriamo sia un corteo grande, sia un corteo determinato, sia un corteo al quale la città parteciperà con la volontà di solidarizzare in maniera attiva nei confronti di chi in questi giorni sta subendo vessazioni e ancora una volta privazioni dei diritti. È chiaro che nei prossimi nella discussione dei movimenti dei prossimi giorni, capire quali sono le iniziative che porteranno queste famiglie a riconquistare un diritto. Ebbene sì, d'accordo, va bene. Allora Irene, ricordiamo di nuovo l'appuntamento del corteo, poi magari vediamo se è il caso questa sera di capire meglio come è andata anche l'udienza. Beh, certo, ci risentiamo, così certo. Esattamente, cerchiamo di capire cosa accadrà oggi nell'aula a Piazzale Clodio, e dopodiché appunto rilanciamo questa assemblea domani pomeriggio alle 16.30 al centro congressi di Via Cavour, un'assemblea dove chiamiamo tutte e tutti anche lì a esprimersi e a portare solidarietà attiva nei confronti appunto dell'attacco che i movimenti stanno subendo in questi giorni. E poi sabato appunto corteo con partenza alle 15 da Piazza Vittorio. D'accordo, ciao, un abbraccio. Un abbraccio a tutte e tutti, ciao. What was next? We're trying.